24 mattino. Questo napoletano incontrato oggi pomeriggio è Massimo Troisi. Sentitelo. Questo scivetto io non lo so, perché non mi chiedere com'è che io sento che quest'anno lo scudetto non voglio neanche dire questa parola, perché mi fa impressione. Questo è l'anno buono, cioè vega squadra affiatata, vega squadra Massimo, forte. Eccoci qui, il Troisi che sognava il Napoli, il Napoli sulla vetta, la Catalogna che si separa con qualche esitazione, i passi sono incerti in questo tempo e la rassegna stampa comincia da qua, dal nord, sud, l'est e l'ovest che si scambiano di posto. Allora, la crisi catalana, dicevo, ma nella tana separatista, scrive Repubblica, la rivincita su Madrid, almeno nel calcio, è la cosa, l'evento incredibile della squadra del Girona che batte il Real Madrid, la squadra del paese da cui viene il leader separatista oggi sconfitto che riesce a battere la squadra dei grandi Blancos. E questa è una grande notizia che mischia lo sport e la politica e rende possibile nello sport quel Davide contro Golia che nessuno credeva vero. Allora, secessionisti divisi sul voto anticipato, sempre da Repubblica, perché sì, sono rimasti spiazzati. Omero Sciai ci spiega perché. La convocazione di elezioni anticipate express e una sospensione dell'autonomia catalana che durerà meno di 2 mesi ha complicato i piani degli indipendentisti, che si aspettavano un'applicazione molto più dura anche nei tempi dell'articolo 155. Il primo shock è stato la necessità di decidere se parteciparvi o meno. Se hai appena dichiarato la Repubblica, come puoi infatti partecipare alle elezioni convocate dal Presidente dello Stato, la Spagna che hai appena abbandonato? Bel dilemma. E allora iniziamo con le prime pagine. Repubblica, Corea, una notizia che ha solo questo giornale, la mediazione di Papa Francesco, vertice in Vaticano con l'ONU e con la NATO. Il Fatto Quotidiano, Renzi fa il bullo con tutti. Corriere dello Sport, Roma da record. Domani il Chelsea, primato di presenze ed incasso. Cresce l'entusiasmo attorno ai giallorossi, 55.000 all'Olimpico. Il Sole 24 Ore, importantissima apertura, la leggeremo, sulle pensioni. Pensioni cumulo gratuito per 400.000 professionisti, numeri già alti per medici, geometri, farmacisti. La tabella, le tabelle che aiutano a vivere, chi può scegliere questa strada? La speranza di vita e i dolori del welfare di Giancarlo Biangiardo, è l'editoriale di oggi. Il Tempo! L'apertura, la grande bolla del magna magna vale 300 miliardi e parliamo del settore alimentare per il fondo il Tempo, il giornale diretto da Gianmarco Chiocci. È divertente anche il titolo del fondo di Veneziani, il prodotto interno lardo. Ma il titolone è finti permessi ai clandestini, ecco la fabbrica degli italiani. Il Giorno, sisma, miraggio casette, bisogna veramente andarci. Un anno dopo la nostra inchiesta, consegnate nelle Marche solo il 12% degli alloggi e meno del 28% in Umbria. Il 12% degli alloggi consentiti, ottenuti, concessi, beh, è una vergogna. Libero, il marciume di Banca Italia. Perfino Casini si è accorto che qualcosa non va. Ma Vittorio Feltri invece va sulla Catalogna. La Catalogna ha lo stesso destino del nord. La Stampa, in Val di Susa l'inferno degli sfollati. Sì, perché parliamo di che cosa sta accadendo per l'incredibile incendio che sta tormentando il Piemonte. Si aggrava la situazione. L'ex direttore della Forestale, è stato un errore sopprimere il corpo. Lo abbiamo fatto per soldi, ragazzi. Corriere della Sera. Dirigenti pubblici sotto assedio e il fondo di Cassese sui dilemmi della pubblica amministrazione. E il vero titolo, anche se non è tecnicamente l'apertura, è Renzi. Apertura sulle alleanze per MDP. È tardi. Il Giornale, sobrio. Svolta a sinistra, il titolo è Renzi sceglie i comunisti e Grillo fa il furbo, nessun caso Appennino. Poi c'è il fondo di Macioce contro il nuovo personaggio che è in campo. Se Grasso è solo la matrioska Ida Lema contro il presidente del Senato Grasso e la sua ipotesi di collaborare. La Gazzetta dello Sport, Mattatori, mette insieme i due bomber decisivi, Mertens, che abbiamo cantato nella nostra copertina, e Higuain, il grande ritorno di Gonzalo, tutto fare della Juve. Grazie, grazie Buffon. Il Messaggero, alleanze, la mossa di Renzi. Il leader PD, noi perno del governo, basta veti e voto a marzo, ipotesi primarie di coalizione. Il fondo di Biagio De Giovanni, intellettuale, diciamo un tempo riformista, della vecchia ala riformista del PC intendo, il futuro dell'Unione Europea dipende anche dal voto italiano, sottotitolo Guerra ai populismi. Allora, voglio iniziare da una vicenda che, nel bene o nel male, mentre cito anche la copertina dell'Espresso, un anno di Trump e la meravigliosa vignetta di Altan dell'Espresso, intervistatore con la solita faccia dei personaggini di Altan: scusi, perché lei è populista? Risposta dell'intervistato: cazzi miei. Dicevo, e voglio cominciare dallo Ius Soli, perché ci sono due pronunciamenti importanti, perché si parla dell'arrivo imminente di questo provvedimento. Sapete che si parlava di una possibile fiducia, no? Ebbene, c'è il solito pezzo informatissimo di Monica Guerzoni e anche quello di De Marchis, due cronisti che seguono Renzi con la carta millimetrata, diciamo, da cui esce fuori che Renzi ha trascurato il passaggio del suo discorso su Ius Soli che tutti attendevano. Allora, godibile il pezzo della Guerzoni con Renzi sul treno delle gag. Alla faccia dei sondaggi che fanno paura, scrive Monica Guerzoni sul Corriere, Matteo Renzi è in vena ai scherzi, a Pietrasanta si improvvisa giornalista e in viaggio persino capotreno. E lui a strappare il microfono a un collega TV per fingere di intervistare Valeria Fedeli. È sempre lui ad annunciare all'altoparlante, cari clienti, che il convoglio democratico arriverà alla stazione di Termini anticipo. Il PD è sempre avanti, e così via, una gag dopo l'altra, con tutti questi ministri a bordo, speriamo che da qui a Roma non succeda nulla, strappa scongiuri ai 7 esponenti del governo, se no dobbiamo fare un rimpastone. Però dicevo che la nota che a me interessa è che a un certo punto Renzi non cita il provvedimento di legge né tantomeno la fiducia sullo Ius Soli, e la Guerzoni le chiede: ma perché non ha parlato dello Ius Soli? E lui risponde così: sì, me l'ero appuntato, glissa, accreditando un'amnesia. Ma davvero pensiamo che sia un'amnesia? Domanda che mi faccio io. Comunque, questo il Corriere della Sera, in cui si parla di questo, di questa amnesia. E uguale scenario c'è su Repubblica. E allora la cosa interessante è che i grillini anche loro affondano il provvedimento. Sul Giornale, a pagina 5, Ius Soli, noi ci asterremo. I grillini per ora si sfilano per coprirsi a destra. Quindi non c'è la parola di Renzi, non c'è il voto dei grillini che sarebbe decisivo per farlo passare. Su Repubblica, pagina 9. Su Repubblica, pagina 9, parla Matteo Salvini. E che cosa dice? Parla anche lui dello Ius Soli, dice che darà battaglia e annuncia anche che è disposto a votare Grillo. Cioè, scusate, a dialogare con Grillo, cioè a fare un governo con Grillo qualora ci fosse una maggioranza non chiara dopo il voto. Ecco, questo è importantissimo, ve lo leggo. Sia chiaro, io lavoro per costruire una maggioranza di centrodestra, ma se all'indomani del voto non ci fossero i numeri, dice Salvini a Carmelo Lopapa su Repubblica, allora non mi rivolgerei certo ai vari Gentiloni, Renzi, Alfano. Mai un governo con loro, non so come ripeterlo. E allora col Movimento? Se non fossi costretto a chiamare qualcuno, chiamerei lui, Grillo. Pubblicità, meteo e torniamo. Lo dico perché si è vissuto con grande dolore il fatto che il Presidente del del Senato abbia lasciato la testa del Partito Democratico, e mi dispiace. Devo anche avere il coraggio, e mentre dico questo dico anche che noi non facciamo polemiche con la seconda carica dello Stato, perché siamo persone rispettose delle istituzioni. Dico anche con la stessa chiarezza, con la stessa franchezza, con la stessa forza, che non è per noi condivisibile l'espressione la fiducia parlamentare è un atto di violenza. Mattino. Rieccoci, Radio 24, 24 mattino, 7:35 minuti, 13 secondi, Luca Telese al microfono, raccontandovi l'essenziale, la quintessenza della stampa del giorno. E allora chiudiamo rapidamente le cose della politica con un paio di segnalazioni. Martina sul Corriere, a pagina 4, lancia l'ultimo salvagente verso i compagni separati. Facciamola questa alleanza, facciamola, abbiamo già un po' detto prima, nelle prime ore, sembra molto improbabile che si riesca a farci, però il titolo di Martina è intervistato a pagina 4, da Alessandro Trocino: disposti a confrontarci con Bersani e D'Alema, invieremo il programma. Banca Italia, voltiamo pagina, uniti con Gentiloni. E Ale, l'alleanza, se volete il riassunto di cosa è successo, mossa il PD del leader PD sulle alleanze, non metto vetri al centro-sinistra, Fulvio Bufi, e i guardiani della svolta, Minniti e Franceschini, era lo scenario sul treno. Però l'altro pezzo è segnale, Tommaso Labate, a pagina 2, in retroscena, per il bersaniano ormai è troppo tardi, non c'è più spazio per le desistenze. Gli avevamo teso la mano per modificare insieme la legge elettorale, lui ce l'ha ricacciata indietro. È stata la ferma posizione del leader di Articolo 1, Speranza. Adesso possiamo solo ritrovarci dopo le elezioni, ma la possibilità di accordarci prima, al momento, non esiste più. E Renzi, in cambio del fatto, ipotesi, e se Renzi in cambio del fatto che contro di lui rinunci a candidare uno del PD, dove corre Enrico Rossi, il complicato meccanismo della desistenza, cioè se il PD non corre contro Enrico Rossi e MDP non corre contro Renzi, ecco, se lo facessimo per colpa dell'assenza del voto disgiunto, in quegli stessi collegi dovremmo rinunciare, dice il leader di MDP Speranza, a presentare il nostro simbolo e saremmo costretti a perdere voti nel proporzionale. Questa è la spiegazione fatta dall'abate del motivo per cui non si farà e non è possibile la desistenza. Sul Giornale invece uno scenario interessante di PR Marketing, il motivo forse per cui c'è stata questa apertura, a sorpresa i sondaggi spaventano i Dem, l'ex PM, cioè Grasso, presidente del Senato, può valere il 15%. Sarebbe questa capacità di aggregazione superiore a quelle della sinistra, che come sappiamo non supera mai il 10% in tutti i sondaggi, uno dei motivi per cui Renzi ha fatto l'apertura. Il pezzo di Scafuri sul Giornale. E allora il ritratto durissimo del Giornale su Grasso di Pasquale Napolitano a pagina 2. Patrimoniale e manette, ecco il programma del Presidente del Senato. Sul Tempo, una cosa che a me mi ha sempre interessato molto, dove finisce lo scudo crociato? Come sapete c'è una lotta, coltello, cause, avvocati da 20 anni che se lo dibattono. Ebbene, secondo quello che dice sul Tempo a pagina 7, a pagina 6, la DC torna a Piazza del Gesù ma sul simbolo ancora guerra. Antonio Sbraga, pagina 6, lo scudo crociato di Fontana nello scantinato della vecchia sede, Rotondi non ci sa, annuncia il logo è mio e si alleerà con Berlusconi. Andiamo alle cose della cronaca, anche se del passato, a pagina 7, sempre sul Tempo, Luca Rocca, l'oblio per il Messino, un ragazzo di 16 anni, Mario Zicchieri, ucciso nel 75. Dopo 42 anni ancora niente colpevoli, Gasparri contro la Procura di Roma. Ma vi sembra possibile che 42 anni e ancora ci sono vicende aperte? Una follia. Allora, abbiamo detto di ADC, abbiamo detto di Zicchieri, Appendino. La vicenda per cui ora, anche adesso, qualcuno di voi mi ha scritto insomma, parli dell'Appendino, non parli della Boschi. No, ragazzi, aprite le orecchie. Ho parlato del caso della Boschi, che però era di 2 giorni fa, Mentre l'eco delle dimissioni è ovviamente sui giornali di oggi, se ne va il braccio destro Paolo Giordana. A chi interessa leggere come, perché e cosa sta accadendo, Appendino, rivolta nei 5 Stelle, veto sul sostituto di Giordana e legato al centro-sinistra. La base no a Ferrari, che sarebbe Giuseppe Ferrari, 59 anni, vice direttore generale della città di Torino, è legato al centro-sinistra. Interessante il fondo di Marco Imarisio, parla dei disastri economici dell'agenzia municipalizzata e dice che sarebbe inammissibile se non si votasse il risanamento che la regione deve fare per impedire il fallimento. Leggo le ultime righe. La diffusa convinzione che la giunta Appendino possa cadere sul prossimo bilancio induce una parte consistente dei democratici torinesi alla tentazione del tanto peggio, tanto meglio. Muoia GTT e con essa i filistei dei 5 Stelle che hanno conquistato Palazzo di Città. A prescindere dalla sorte di Ceresa, dice Marco Imarisio, pagina 6, Corriere della Sera, sarebbe forse il caso di ribadire che prima di tutto viene di interesse generale. La battaglia politica non si può fare sulle vite dei lavoratori. Quello che sta dicendo Imarisio è che la regione deve salvare la municipalizzata che gestisce i trasporti a Torino, e ci mancherebbe altro, dico io. Bene, abbiamo finito con la politica e da pagina 14 lo citavo in apertura, il cingalese picchiato, una vergogna, era un cuoco, usciva tranquillo insieme a un amico dal lavoro, dopo aver lavorato gli gridano negro di merda, bastardo, un gruppo di ultra della Roma lo pestano a sangue, la foto che c'è sui giornali e il suo volto totalmente sfigurato, ma saluta con la mano, un auguro anche a te. Corea, il Papa media su Repubblica a pagina 1 e la mappa di diamanti che esce, come sapete, lunedì, il tempo delle passioni tiepide, molto importante, e una cosa che trovo solo sul giornale ma che probabilmente ci darà da discutere, il no, il pro e il contro, anzi no e sì al lavoro domenicale in due opinioni. Stefano Zecchi, perché no? Lavorare troppo distrugge la nostra anima. Perché sì, Carlo Lottieri, è inutile negarlo, sarebbe contro la libertà. Quindi il giornale a pagina 18 dà la notizia delle polemiche che ci sono in questi giorni, avete visto lo sciopero delle madri dei supermercati, vogliamo poter tornare a casa e non essere obbligati a lavorare. Il presidente della CEI Bassetti, è il giorno da dedicare all'eucaristia, alla famiglia, alle relazioni personali durante la settimana sociale a Cagliari. Questi due pareri che sono figli, poi pensate, di un provvedimento contenuto nel decreto Salva Italia di Monti del 2011. Vi dico subito la mia opinione, poi ne parleremo con Giannino. Allora, deve essere possibile lavorare, ma non deve essere obbligatorio lavorare e non deve essere mai possibile lavorare tutte le domeniche del mese. Questa è la mia opinione. Quindi libertà di far lavorare, ma libertà di scegliere se lavorare o no. Sul Corriere, a pagina 23, importantissimo per Milano, Renzo Piano scende in campo, una cosa un po' inconsueta, insieme a Sala, perché devono finire i lavori a Parco Lambro. Sapete che la prova d'ordine del grande architetto genovese è ricucire le periferie. Gian Giacomo Schiavi, un paginone molto bello su come procede questo lavoro di recupero, e però qui c'è il messaggio shock. Piano e la rinascita digitale in periferia, da qui un esempio per tutto il paese. A Ponte Lambro, scusate, l'architetto senatore: per completare l'opera servono 2,5 miliardi, dateci una mano voi. Che vuol dire? Mettete mano al portafoglio. Si cercano imprenditori in grado di finanziare la cifra che manca. Allora anche noi diamo qui l'appello, aiutate Ponte Lambro a finire i suoi progetti, cacciate fuori, come si dice a Oxford, questi 2,5 miliardi che servono per finire il lavoro. Fra pochi istanti, dopo le strade in diretta, la mitragliatina, perché oggi c'è poche munizioni ma molto succose, e soprattutto la pagina del money. Ciao papà, sei obeso. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta 24 mattino. Io sono una persona che in occasione delle elezioni politiche del 2013 ho aiutato un candidato che si era presentato all'estero qui in Germania a farsi eleggere al Parlamento. E allora, era un frammento di un servizio, pensate come siamo interattivi, ce lo chiede a gran voce un ascoltatore interattore da stamattina e l'abbiamo messo, il servizio delle Iene, sui voti comprati all'estero, però anche questi sono soldi, ma sono i soldi che non vogliamo vedere e ne avevamo parlato, come sanno gli ascoltatori di 24 mattino. Invece la legge di bilancio spiegata come nessuno fa in Italia sul Sole 24 Ore. Mi dice, ma citi il Sole 24 Ore perché della Confindustria? No, cari, lo cito perché a pagina 3 c'è una cosa straordinaria di servizio, il catalogo dei bonus. Ci hanno lavorato in tre, Antonello Cherchi, Cristiano Dell'Oste, Valentina Mella, però è una pagina sontuosa. Pensate, ci sono 21 diversi interventi, 5 riguardano la famiglia, 5 le imprese, 6 la casa e 5 le possibili donazioni. E poi cosa cambia settore per settore? Allora, bonus mobili, bonus trasporto pubblico locale, assicurazione per le calamità, bonus spese scolastiche, bonus cultura diciottenni, per le imprese superammortamento, credito per la formazione, credito d'imposta per il sud, credito per le PMI in borsa, bonus per gli stadi addirittura, con le scadenze, le date, come ottenerli, e poi sulla casa, detrazione sui lavori, eco bonus, bonus giardini, cedolare secca al 10%, detrazione IVA da IRPEF, deduzione casa del 20%, e poi sulle donazioni, bonus fondazioni bancarie, sport bonus, detrazione per le donazioni, deduzione diversa per le donazioni, taglio dello school bus. Signori, siamo una repubblica fondata sui bonus statali. Alla scuola il conto maggiore della crisi, pagina 2, sempre sul Sole, molto importanti, ma il pezzo veramente interessante è quello sulle pensioni, cumulo gratuito per 400.000 professionisti. Capite subito di che cosa si tratta e quanto sia importante. Il Sole, pagina 4 e 5, Barbieri, Mazzei e Ilva, tre che scrivono per raccontare il rischio del cumulo sui conti delle casse. La platea potenziale è di oltre 400.000 professionisti e oltre 50.000 gli avvocati con doppia contribuzione. Pensate, più di 100.000 i medici, per molte categorie resta difficile stimare con esattezza la platea interessata. Sono due pagine da leggere perché altrimenti non ci si capisce niente. Allora, vi dicevo, le badanti sul Giorno, pagina 4-5, sì, perché sono uno dei motori della nostra economia, non le ricordiamo mai, non si vedono, sono scure, l'esercito delle badanti, lavoro domestico, mondo sommerso, business da 7 miliardi, pensate, sono 900.000, qualcuno dice, ma che fanno gli stranieri in Italia? 90% fanno le badanti, ma se si considerano assistenti familiari, colf e babysitter non in regola, le cifre raddoppiano, 1.8 milioni di persone in Italia che fanno questo. E allora l'intervista a Gasparrini, associazione Domina, servono spese deducibili e presso un registro nazionale. E una cosa molto importante sul Messaggero, sono degli istituti che fanno un lavoro prezioso, e sono gli ITS, ecco, gli tagliano un po' di soldi. Alle scuole professionali in arrivo solo 5 milioni, troppo poco per il rilancio. I fondi che erano previsti dalla manovra sono stati ridotti, ma gli ITS, e ne so qualcosa io che li conosco bene perché ho fatto pezzi su come lavorano, garantiscono l'occupazione all'80% dei loro iscritti. Cioè c'è un'istituzione in Italia che riesce ad allocare i giovani, a dargli un lavoro, sono cose commoventi, e gli tagliano i fondi, e vabbè. Invece, molto importante, l'ultima cosa che vi leggo riguarda i bonus. No, ve l'ho già letta, e allora è il momento di provare a mitragliare qualcosina. Il Messaggero, pagina 9. Vi ricordate com'era cominciata la legislatura? Vendiamo, mettiamo all'asta sui belli auto blu, basta, andiamo in bicicletta col triciclo, basta sprechi, basta la casta. Ed eccolo qui sul Messaggero come si chiude la legislatura. Auto blu, gli enti locali tornano a fare shopping. E pensate, a dicembre scade il divieto per i nuovi acquisti, comuni e regioni sono già partiti e stanno già comprando macchine. I casi di Liguria, Abruzzo, Campania, e il governo pensa alla proroga del blocco. Un dato che vi dà la misura nella tabella del Messaggero, il focus è a cura di Diodato Pirone. Nel 2014 erano 7.902 le auto blu in mano ai comuni, nel 2016 sono 15.935, cioè più del doppio. Nel 2014 erano 7.204 le auto in dotazione alla sanità, sono diventate 9.047. Nel 2014 erano 1.276 le auto in dotazione alle regioni, sempre Diodato Pirone, il Messaggero, pagina 9, sono diventate 1.624. Libero, libero! Censurate quel politicamente scorretto, censurate quel latente antisemita, censurate quel razzista. Il pezzo di Gianluca Veneziani a pagina 10, di chi stanno parlando? Di Shakespeare. La follia politicamente corretta, e non si può che essere d'accordo, pericolo, censurate Shakespeare. All'indice anche Euripide, Scott Fitzgerald e altri dall'università di Cambridge. Pensate, dalla culla del sapere anglosassone arriva questa parola d'ordine. No, bisogna impedire, ci sono battute sui ciechi, sugli storpi e sugli ebrei. Ma signori, questa è la grandezza dell'arte, del teatro, ma cosa censurate, ebeti? Riabilitato Trotsky. No, sembra uno scherzo, ma sul Fatto a pagina 12 ci raccontano che per la prima volta la televisione sovietica parlerà ex sovietica, la televisione russa parlerà dell'eroe dell'Unione Sovietica prima che Stalin lo epurasse, Trotsky. Ebbene, fate un po' di conto, 1917-2017, 100 anni per riabilitare Trotsky, un record. Sul Giornale a pagina 17 viene data non con grandissimo risalto, ma sono sicuro che appassionerà tutti voi, perché è una sentenza della Corte che farà giurisprudenza. E sapete cosa è successo? Aveva investito un cane, è stato condannato a 6 mesi, ma non perché la patente, l'infrazione al codice della strada, proprio per aver ucciso il cane. Quindi Beppi Castellaneta ci informa di questa vicenda che da Foggia cambierà probabilmente il diritto italiano. La sentenza è per la morte dell'animale, non per violazione del codice della strada. Quindi attenzione, perché da oggi con questa sentenza uccidere un cane o un gatto può diventare un delitto. Pagina 9, Libero, nel tempo di Weinstein, ormai abbiamo imparato a pronunciare questo indicibile immaginario americano, quello delle molestie che si estende a tutto il mondo anglosassone. Ebbene, scandalo a Westminster, la May in grande difficoltà, ordina un'indagine sul suo collega di partito, deputato nei guai, e attenzione cosa faceva questo mascalzone, chiamava la sua assistente tette di zucchero. Libero, pagina 9, i tempi che cambiano, la giustizia che si abbatte, condanne per i cani, per le tette. Noi ci fermiamo, GR Strade, e poi torniamo con i cani e i gatti, quelli che insomma devono essere salvaguardati, con Oscar Giannino. Ciao! A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No! Tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino!